chiamato, adesso pubblico tutte le mail. Ora pubblico tutte le mail. Voi volete vedere che vi pubblico le mail? E vi faccio vedere che mi ha chiamato il giornalista di Diritto Rovescio, il giornalista di Foro del Coro. Sì, mi hanno chiamato. Matteo! Lo so, è colpa mia, ragazzi, è tutta colpa mia. Lo so che è tutta colpa mia. Lo so. Non dite niente, è tutta colpa mia. Lo so già. In diretta, via Monterosa 91, 20149. Milano, ancora non so, cioè, ancora viva. Nonostante il disastro, siamo qui dove il coronavirus non è arrivato, non è entrato fino a prova contraria. Tocchiamoci i cabasisi. Autoapplauso. In collegamento da via, no, non lo possiamo dire. Comunque dal quartiere Prati in Roma, dove secondo me il coronavirus proprio non è mai entrato neppure da lontano, grazie a quegli interventi dei signori israeliani, eccetera eccetera. David Parenzo, eccolo qui, buonasera. Buonasera cari amici, piccolo errore, in realtà mi trovo in quel dei Parioli, ma non importa. Buonasera e grazie. Piccola. Che sei fai dei Parioli? Scusa, mi sono trasferito in Parioli. Sei passato dall'alto al basso all'alto. Mi sono trasferito qui in una casa. Questa è novità, questa è una grossa novità stasera. È enorme. Dunque, però il tema vero non è questo. Qual è il tema? Il tema vero è che questa signora dell'Inps sì, che tanto estetista, si lamenta, ma no, quello che si lamenta perché non può lavorare, fare anche il notaio, perché ancora non può lavorare, estetista. Sì, ma che accusa noi più che altro di aver fatto delle malefatte eccetera. Sì. Lei ha creato un danno enorme alla sua commercialista, in cui possiamo anche ripetere il nome, Pitone, perché questa Pitone. Pubblicità è cosa si chiama? Pitone, come si chiama? Non mi ricordo. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso Pina deve Pitone. Mettere un altro codice IBAN. IBAN, allora, deve mettere un altro codice IBAN, sì. Io credo, chiedo scusa alla dottoressa Pina Pitone per il danno enorme che questa sua cliente gli sta creando. Non è bello avere dei clienti così, secondo me, non dà lustro allo studio. Allora, prima di iniziare con la vicenda dei Navigli, su cui ho molte cose da dire, di Milano, di Sala, di questa vergogna nazionale, non tanto delle persone che sono andate lì, ma dell'amministrazione di Milano, una vergogna quello che ha fatto oggi il sindaco Sala, una vergogna. Invece di prendersela con se stesso, perché non ha bloccato prima, non ha mandato i vigili urbani sui Navigli, dice: ma perché demandi sempre tutto allo Stato? Lasciamo perdere. Ti vorrei perché fare demandi? Commentare. Ma la gente adesso non ha ci arriviamo. Ti vorrei far commentare una piccola notizia che viene, non so se per caso, non credo per caso, da Verona. Mascherine con il volto di Mussolini, scoppia la polemica. Prodotte da un'azienda nel veronese con il motto del duce: camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere, disse una volta Sua Eccellenza. Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere, poi anche andare al disastro, per carità, di conseguenza, insomma, no? Sono queste mascherine, prodotte da questa azienda che però nega nel solito gioco delle parti, con l'effigie del duce, un breve commento a riguardo. Se uno se la mette è un incitamento a farsi tirare un pugno sui denti, secondo me, perché uno si mette quella mascherina lì, no, è un incitamento non ho detto che lo farei, è un incitamento a farsi tirare un pugno sui denti. Ma la seconda ipotesi, e si può avere una anche di Piazzale Loreto, è possibile avere una mascherina? Dici, la mascherina con i due appesi a Piazzale Loreto, no, diciamo. Una mascherina di Piazzale Loretto. No, si può avere una mascherina? Mascherina con che cosa sopra? Poi, con che cosa? Piazzale Loreto, sopra scritto Piazzale Loreto. Poi, la terza ipotesi, se per caso a Palermo o a Corleone facessero una mascherina con la faccia di Totò Riina, che cosa si direbbe? Si direbbe che è una vergogna e che probabilmente meno male. Bene. Stai paragonando ancora una volta Benito Mussolini, uno che è stato comunque un capo di Stato, un governante criminale, al signor Totò Riina, che era fuori dallo Stato. Ma anche Pinochet è stato un capo di Stato pure, sì, un criminale, d'accordo, per carità, ho capito, ma il signor Pinochet ha fatto un piccolo colpetto di Stato, Saddam, che cos'era, un liberale, non ho capito. Secondo te queste mascherine possono andare in circolazione oppure no, o andrebbero sequestrate dalla polizia? Ma andrebbero sequestrate le mascherine, sequestrata l'azienda che le produce, anche così per dare un segnale, un piccolo segnale, sequestrate le mascherine mascherine sequestrate. Chiusa l'azienda? Chiusa, l'ho sequestrata per un periodo l'azienda. E arrivederci e grazie. Se ne andassero tranquillamente a fare il culo. Molto semplice. Molto, molto. Non si può nemmeno fare. Bisogno di non urlare. Si può nemmeno fare. Ma non voglio neanche urlare. Non voglio dire, lo dico con assoluta freddezza e tranquillità. Si sequestrano le mascherine, si sequestra per un po' l'azienda e si manda sinceramente a fare in culo chi ha avuto questa idea. Tutto qua. Cioè, non si può nemmeno fare in tutta semplicità delle mascherine col volto di Mussolini sopra. E chi se ne frega? Secondo me potrebbe essere anche più semplice identificare i fascisti dal tuo punto di vista. Cioè, paradossalmente, questa è un'altra cosa. Tu dici, però poi non si lamentino, non gridino allo scandalo se per caso qualcuno gli tira un pugno sui denti quando uno ha quella mascherina lì. Cioè uno più non semplice, si deve no? poi lamentare, sì, ma però me la poi, violenza. No, non c'è nessuna violenza. Se tu vai in giro con la mascherina lì, magari una sberla ti arriva, non sì, lo so però io, posso dirti una cosa, dovrebbe essere molto semplice. Ma una sberla democratica di quelle che di quelle che ti rimanga della cinquina in faccia, non ti fa così male, ti rimane la cinquina in faccia. Ho capito, però, ma uno non può andare in giro, la mascherina di Mussolini identifica la persona direttamente, per cui è più semplice, no, identificare. Potrebbe anche, non avevo pensato a questo aspetto dell'identificazione. Sì, certo. Questo è un aspetto, ti fa onore. Questa tua idea ti fa onore. Allora passiamo al sindaco Sala. Allora ragazzi, sì. Il sindaco Sala, io voglio dire una cosa. Gengiva, ma ne parliamo più tardi. Sì, di sì, lo so, è un problema alla gengiva. Cari sì, dentisti, se siete in ascolto, cosa ti è successo. So cosa ti è successo. Si è ristretta ieri la in un lavoretto che hai fatto, in un lavoretto ti sei rimasto impigliato un pelo. Ti sei rimasto impigliato un pelo. Sì, lo so, me l'hai raccontato prima. Me l'hai raccontato prima. La cosa mentre vera stavi che facendo un lavoretto un e non dico cosa, potrebbe essere tante cose. Coglione, ti sei impigliata una cosa, la gengiva, che si è un po' scavata dentro. Troppo grave. Ragazzi, la cosa è, ma che scavata? Si è ritirata un po' di gengiva e quindi ho il dente che mi fa male. Una cosa molto grave che potrei dover fare la settimana prossima un intervento. Ma ne parleremo poi nel corso. Potrebbe essere intervento chirurgico alla gengiva. Finalmente, quale grande diretta? Funziona? Non funziona per niente, fa un male cane. Dai, che fa ascolto. Fa ascolto un cazzo, fa un male della madonna. Dai, fa ascolto la diretta. Ho capito, fa anche ascolto. Durante la radio, vediamo con le telecamere, la webcam direttamente. Ma nessuna webcam. Ma scusi, Francesco, non hai spiegato questa cosa dalla gengiva che si ritira di Parenzo? Il dolore naturalmente è parte essenziale, naturalmente, della vita. E allora bisogna farlo vivere il dolore, naturalmente. Appunto, quello pulsare il dolore, bellissimo, il sangue che zampilla, dai che funziona finalmente, dai. Appunto, io piazzerei dentro la tua bocca una telecamera, una telecamerina. Bruciaferro, perché ce l'ha con Bruciaferro? Perché dai, basta, pregliasco, Bruciaferro, Burioni, ma di cosa, ma dai, noioso, il dente putrefatto di Parenzo, meglio il dente putrefatto di Parenzo in diretta. È la realtà quella, naturalmente. La vita è quella, naturalmente, è la realtà. Allora ragazzi, il sindaco di Milano, comunque, se c'è qualche dentista che chiami per piacere, perché mi si è ritirato, c'è già il mio ottimo, da cui vado martedì, contributo gratis, hai capito, bravo. L'uso privato della radio si chiama questo qui, esattamente, bravo. Allora, i Navigli di Milano, poi parleremo anche di te, però io non c'ho niente novità di te, ti voglio tenere sul filo fino alle 20:50 perché qualcosa accadrà in questi giorni. Non c'è niente. Voglio tenere sul filo l'ascoltatore. Potrei rivelare delle cose. Ma tu stai tranquillo. Navigli di Milano. Decidono, come altri posti, che si può fare l'asporto. Si può fare l'asporto. Tu pensi, sindaco Sala, che la gente arrivi sul Naviglio, prenda, che cazzo ne so, uno spritz, una birra, un cocktail in asporto e se lo porti di nuovo a casa 2 chilometri più avanti, 1 chilometro, 500 metri? No, non può accadere questa cosa qui ad un animo razionale, ad una persona che conosce la città sui Navigli, dove già era successo un casino nei primi giorni dell'epidemia. E allora che cosa fai tu, sindaco normale? Piazzi lì, dovresti piazzare, o chiudi quel tratto di strada e chi se ne frega, oppure, se non lo vuoi chiudere, giustamente, cosa fai? Piazzi i vigili. Piazzi i signori vigili, 10, 20, 30, che quando vedono qualche assembramento, qualche persona che non fa quello che deve fare, dice: senti, qui non ci puoi stare, vattene. E la storia si chiude qui. Invece, un cazzo. tutto questo non è stato fatto. E che cosa succede? Che qualcuno, c'è qualche piccolo assembramento, la gente senza mascherine, eccetera, eccetera. Il grande scandalo con gli epidemiologi, i virologi che dicono: ah, se continua così chiudiamo tutto. Ma che cazzo dite? Che ne sapete che c'è stato un contagio? E comunque la colpa non è di quelle persone lì, ripeto, che pure certo potevano evitare, ma è di chi sui navigli di Milano, ragazzi, voi che siete a Reggio Calabria, lo sapete anche voi, perché ormai il mondo non è che hai dei confini, è un posto stretto dove se tu consenti alla gente di andare a prendersi un cocktail, è evidente che la gente col sole poi resta lì, porca la puttana. Dunque la colpa non ma è di queste persone qui, di responsabilità. Facciamo ragazzi, sentire ma tutto il cittadino dopo, la responsabilità. Ma perché il cittadino ha sempre bisogno della legge, a parte, dello Stato, a parte che gli dica che non è cosa successo fare niente, perché le persone erano, ma le persone erano distanziate un minimo, certo qualcuno ma senza mascherina, come si vede un minimo di responsabilità delle persone, vedi che c'è un assembramento, non ci vai. Tutta un coglionella, tutta un coglionella. Zanzarosi, è giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Io potevo essere stipendiata. Ma c'è il problema anche del budget. La vergogna, Cruz. È una vergogna, da quando c'è Stappendino ha chiuso tutti i campi Roma e stanno occupando tutte le case popolari. È uno schifo, manda Parenzo a sistemare la situazione, il tuo amico Parenzuccio, va. Ciao Beppuzzo, un bacione. Cosa? No, lo so, hanno occupato delle case in Roma, hanno occupato delle case a Torino. Vecchia questione, il sindaco di Milano Sala. Ora io dico una cosa, non si può accorgere delle situazioni sempre dopo. Sempre dopo, il giorno dopo. Tant'è che oggi mi segnalano che la situazione è ovviamente cambiata. È normale che sia così, no? Però uno se ne accorge sempre dopo. Ma scusa, ma non ci potevi pensare prima? Immagini vergognose, mi incazzo. Ma le immagini sono il prodotto di quello che uno fa. Se uno agisce, quelle immagini non ci sono. Ma se uno mette i vigili sui navigli, non ci sono. Ma debba trattare i cittadini come ma dei non bambini. È, io non sto dicendo questo. No, spiegami, tutt'altro, io sono per la responsabilità liberale. Sì. Lo Stato meno fa, meglio è. Quello, in questo caso, le leggi le abbiamo capite, le disposizioni. Ma tu passi dal sanzioniamo tutto al cittadino deve essere libero. No, sei uno schizzoide ormai, non hai. Una, io no, dico, le regole ancora. Si conoscono, sì, va bene, bastavano due vigili in più per tenere, per fare che cosa? Per dire andate a bere, per andare a bere un aperitivo da un'altra parte, non creare per non gli stare assembramenti, per non creare la vicinanza tra le ma persone. Ma ci vuole norma. Il vigile per capire che non devi passare con il rosso di una al zona, semaforo? Sto parlando di una zona, quella più visibile, quella più mediatica tra l'altro. Io dico quella sì, più mediatica. Puoi avere anche ragione, dai, su, ma sala, voglio sala, dire anche le persone che si incazza a scoppio ritardato invece di fare quando si ho visto incazza. Le immagini, ma le immagini le devi evitare che accadano, cazzo, altrimenti che cosa commenti, altrimenti sei come me, sei come te, si incazza, come lui non si deve incazzare, deve agire scaldi, perché come... non accadano. Quando c'è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso, io sono sempre il primo a farlo e mi piace anche, però ci sono i momenti in cui c'è da incazzarsi e questo è uno di quei momenti. Le immagini di ieri lungo i navigli sono vergognose. O le cose cambiano oggi, non domani, non è un penultimatum, è un ultimatum. O le cose cambiano oggi o io domani, come al solito, sarò qua a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i navigli, piuttosto che chiudo lo sport. E poi lo spiegate voi ai baristi. Perché il sindaco non gli permette di vendere? Me lo spiegate voi. Questa è la realtà. Poi io mi piglio le mie responsabilità, stasera ci metto più vigili, ma ve lo ripeto, non è più vigili. Un guardia e ladri. Non è un gioco. Non possiamo permettercelo. In... Veniamo ragazzi al governatore del mondo, il grande governatore del mondo, mentre ti annuncio che negli Stati Uniti alcuni giovani o presunti tali vogliono organizzare i Covid party. E ci ammaliamo, la così saremo immuni. Dici, ammaliamoci la mamma tutti. Dei cretini è sempre incinta. Però posso dirti una cosa: non è nemmeno un'idea così peregrina. I cretini è sempre incinta. Negli USA nascono i Covid party. Mi ammalo, così sarò immune. Posso dirti una cosa, caro David? Non è proprio un'idea così balzante. Prego, io non lo farei. Accomodati. No, prego, ma accomodati. Io non lo faccio, però dico, prego, non accomodati. È proprio una cosa così folle se ci vai a pensare, no? Se ci vai a è pensare. Un'idiozia, è un'idiozia. Comunque, in ogni caso, il governatore del mondo contro Salvini è una delle perle della giornata, vai. Voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese, sì. Il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il sud. Sì. Ha detto che c'è una regione del nord che è l'unica che ha fatto iniziative per i fitti. Ricordo a questo autorevole esponente del nord e del sovranismo. Non voglio fare nomi, diciamo, è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, diciamo. Occhiali color pannolino di bimbo, per intenderci. Vedi che in questo momento è incredibile come esponenti politici del sud maramaldeggiano nei confronti del nord, cioè proprio utilizzano il nord, certo. Dice un esponente del nord, il nord infettato. No, beh, uno che cantava fino a poco tempo fa Vesuvio, pensaci tu, uno che cantava fino a qualche annetto senti, fa. Senti ancora il governatore, senti. Ne approfitto per dire a tutti i nostri concittadini dici. Di evitare di andare in ospedali del nord. Beh. Ma non per ragioni particolari o per... Poi voglio vedere. Intanto nel corso degli anni molti sistemi ospedalieri del nord hanno campato con centinaia di milioni che prendevano dalla nostra regione. Beh, che certo, se uno decide di andare da Napoli a farsi operare a Milano, in Lombardia, a Brescia, non so dove, perché pensa che ci sono medici migliori, quelle ditte ospedaliere, quelle aziende ospedaliere guadagnano dei quattrini. Poi senti il governatore ancora, la Campania è la migliore assistenza sanitaria del mondo. 300 milioni di euro che dalla Campania andavano a sostenere i sistemi delle altre regioni del nord. Allora invito convintamente i nostri concittadini a rimanere in Campania, intanto perché sono oggi gli ospedali più sicuri d'Italia, poi perché sinceramente abbiamo la possibilità di dare un'assistenza che è la migliore d'Italia, in qualche caso del mondo. La migliore assistenza del mondo, ragazzi. Il mondo si è completamente. No, ma lui parla in generale. Il Cotugno di Napoli. Si è completamente ribaltata. Che tu hai ignorato in tutti questi mesi. La situazione si è completamente ribaltata. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha una idea, direi buona, ottima, che è quella del passaporto. Per gli innamorati, cioè dire l'esigenza di rivedersi tra gli innamorati siciliani e calabresi che stanno da una parte e dall'altra e che non possono vedersi, si dovrebbero vedere. Un'idea pratica, concreta, popolare. E invece alle 19:30, hai anticipato l'ingresso dei pagliacci. L'elite dice no, è un buffone, è un pagliaccio. Problema concreto? Persone che non si possono vedere tra Messina e Reggio Calabria, eccetera, per fare un esempio, come da altri posti, perché sono regioni diverse. E c'è il passaporto, una cosa normale, pratica. A te le cose pratiche non piacciono, perché ci vedi sempre la buffoneria, ci vedi sempre il trivio, ci vedi sempre lo spettacolo, ci vedi sempre il circo, ci vedi sempre il bar. Qui c'è il circo, qua c'è il circo, qua, dai. Quindi tu troverai la soluzione. Io mi sono permesso di suggerire l'istituzione del passaporto per gli innamorati. È una soluzione sicuramente fattibile. Fatto sta comunque che non possiamo lasciare inascoltata questa legittima richiesta. Adesso ti faccio ascoltare uno dei nostri idoli, signor Capanna, secondo il quale naturalmente è giusto regolarizzare i migranti, cioè c'è questa Mario discussione Capanna. Infinita sulla regolarizzazione dei migranti, sì. Sulla regolarizzazione soprattutto dei lavoratori dei campi, cioè all'improvviso ci si accorge che bisogna regolarizzare 600.000 persone, qui c'è un grande scontro anche tra Morelli, poi te lo faccio ascoltare, prima però Capanna. Se Romeo facesse come me anche il coltivatore diretto, saprebbe che sono lavori molto pesanti. Allora il problema della Bellanova ha ragione da vendere: regolarizzare gli immigrati, soprattutto gli stagionali, per i lavori agricoli, per la raccolta dell'ortofrutta. Però mi sembra, Capanna, che sia mancato il coraggio, che sia mancato il coraggio in questi giorni di prendere veramente in mano il paese da parte del proletariato. Mi sembra che sia una grande occasione ma mancata. Ma avete tagliato la parte principale, che era quella in cui invitavo le masse popolari a sollevarsi naturalmente contro questa ignoranza imperante, ed è un'occasione ottima per cominciare, uno, ad occupare le terre. Questo è un messaggio fondamentale, non le mie ovviamente, che quelle che mi coltivo io, ma le terre dei padroni, quelle naturalmente che sono in mano a questi padronati locali. Penso in particolare alla Puglia, penso in particolare alle terre della cosiddetta famiglia Porro. Lei forse dimentica e non vuole dire che la famiglia Porro ha un'importante azienda agricola al sud che produce dell'ottimo olio di vino. Allora io dico, compagni e compagni, cogliamo l'occasione, visto che il signor Porro è contrario alla regolarizzazione dei migranti, andate lì e occupiamo quelle terre. Naturalmente creiamo una grande comune, perché il signor Porro, oltre a fare il giornalista, è proprietario terriero. Allora io dico all'assalto, vedete che do sempre una prospettiva, non è che mi barrico, cioè, dentro per lei le bisogna mie certezze. Occupare le terre, non occupare solo regolarizzare i migranti, ma occuparle. Occupare con i migranti regolarizzati, occupiamo naturalmente le terre, e questo diventa una prima grande risposta popolare che possiamo dare. Secondo, poi, una volta occupate le terre, avanziamo verso il nord e blocchiamo le fabbriche. Voi direte, ma sono già bloccate. Appunto, no, insomma, usiamo questo momento. Hanno appena riaperto. Ecco l'illusione meravigliosa di dire hanno riaperto. Sì. No, tac, esattamente, il danno diventa triplice, perché tu hai il Covid, il meravigliosi tentativo quegli di riapertura, meravigliosi. Formidabile. No, formidabili. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal and fast. Ascolta. Io ho l'abbiato di Donald Trump. Di Iran. Guarda. Donald Trump, guarda. Ha l'abbiato. Guarda di mio collo. Guarda, Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia. Donald Trump. Mamma mia. Mamma mia. Donald Trump. Cosa? Renzo, sei un ipocrita di merda, sei un ipocrita. I migranti regolarizzati adesso non servono, ce n'è già abbastanza che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Ne vogliamo regolarizzare degli altri, portare tutte le famiglie qua, fare i voti per la sinistra. L'orticello ti stai coltivando, l'orticello. La priorità in questo momento è mandare gentilmente a dar via il culo a quel coglione che vuole la sanatoria per gli immigrati, chiunque esso sia. Io non faccio nomi perché ce ne sono tanti, quindi sarebbe difficile unire tutti questi nominativi. Gentilmente andassero a dar via al culo, perché io non ho ancora visto una lira e sto tirando avanti la famiglia da solo. Luciani, dato che il panda Parenzo non ha paura del 5G, io proporrei un bel ripetitore dinanzi casa sua. Vediamo se poi è ancora così contento. Dinanzi o sopra casa sua, un bel ripetitore 5G. Ciao Crucio. È normale. La Zanzara è una trasmissione di centrodestra. Ma vai a fare in culo, Stefano dalla provincia di Modena. Vai a fare in culo, Stefano dalla provincia di Modena. Una riflessione. Ma vai anche a fare in culo. Se non ascolti più questa trasmissione, sono contento. Allora, se non ascolti più questa trasmissione, no, sono contento. Sono contento. Poi vai in televisione per una volta a fare la puttanella. La puttanella sarai tu. Su tutti quanti. Tu sei la puttanella delle cretinate. Ma non ho detto niente, questo è il problema. Che non ho detto niente perché ho detto due cazzate. Luciano che fa sempre la puttanella, perché Luciano è una puttanella. È una puttanella, Luciano, puttanella. Sono d'accordo, io sono d'accordo fai, con fai, lei. Fai intendere che c'è la parte di destra e poi rompi il culo a quelli di destra. Comunque ragazzi, siete incredibili. Questa è una trasmissione incredibile, dove la gente, adesso due conduttori, qualche tempo fa tre conduttori, se ne dicono di tutti i colori: puttanella, schiavo, ladro, corrotto, barchettaro, figlio di puttana. Sì, sì, sì. Cioè manca morto solo questo, fama, morto in questo caso è Pietro La Corte. In questo caso è Pietro La Corte che va a riprendersi gli ascoltatori più cattivi contro di te e te li ripropone. Perché... una cosa incredibile, incredibile. Molto bene. Ragazzi, comunque io leggo qualche volta con grande partecipazione, quasi con commozione, alcune cose che vengono per esempio dal mondo religioso. C'è un signore, un buddista, vi prego, oggi buddista, intervistato, okay. un maestro zen, un tale Girolami, Dario Doshin Girolami. Io ogni tanto c'è, sai, bisogno che di buddismo, no, non c'è bisogno di buddismo, calma. no, c'è bisogno che calino i contagi e si arrivi a zero contagi. Ogni volta che entro a casa mia non c'è più adesso, non so perché, questo rumore qua del buddismo. Comunque c'è un signore, Dario Doshin Girolami, io ho grande rispetto per il buddismo, per carità, grandissimo rispetto. Però io dico una cosa, amico mio, dico una cosa: ansia da virus, ci salverà il calore della meditazione. Interpretiamo questa epidemia come un'ingiustizia piuttosto che come un evento naturale. Ma in un fiore che cade, ecco, non c'è errore. Sì. Non è la brama a generare il coronavirus, ma lo sfruttamento delle risorse del pianeta, e contribuirà alla sua diffusione. Ora io dico, amico mio, va benissimo tutto, va benissimo la meditazione, va benissimo le colpe dell'uomo, eccetera, eccetera. Però noi vogliamo tornare semplicemente, in maniera molto tranquilla, molto semplice, senza tanti patemi d'animo, senza troppi ragionamenti, senza starci troppo a pensare. Vogliamo tornare esattamente alla vita che facevamo prima, all'inizio di marzo. Cioè non vogliamo grandi, non aspiriamo a grandi cose, non aspiriamo al miglioramento del mondo, non aspiriamo al miglioramento del pianeta, non siamo tanti Greta Thunberg, non ce ne frega un cazzo di queste cose qui. Siamo uomini semplici, questi ascoltatori, queste persone che ci stanno seguendo, anche Parenzo, lo so, alla fine è così. Non pretendiamo granché. Non vogliamo approfittare di questa vicenda qui drammatica, tremenda, a questa merda, per cambiare l'universo. Vogliamo semplicemente, naturalmente, se non vi dà fastidio, voi filosofi, oggi leggo degli appelli incredibili, ma poi vi leggerò una cosa pazzesca da parte di intellettuali francesi, americani, eccetera, eccetera. Noi vogliamo semplicemente, se la cosa, Parenzo, non ti dà fastidio, se la cosa non ti disturba, se la cosa non ti provoca disgusto, vogliamo tornare alla vita che consideravamo bella, che vivevamo fino all'inizio di marzo, niente di più. Non vogliamo vivere meglio, non vogliamo avere relazioni diverse, non vogliamo essere né più buoni né più cattivi, vogliamo tornare a due mesi fa. Questo vogliamo, cari filosofi, buddisti del cazzo e altre cose. Non vogliamo meditare, vogliamo tornare, se ce lo consentite, se è permesso fare pensieri semplici, terra, vogliamo tornare all'inizio di marzo. Solo questo, in un batter d'occhio, non so quanto ci vogliamo tornare alla stessa identica situazione, cazzo. È incredibile. Diego da Roma, è incredibile. Pronto? Dimmi Diego. Eccomi, ma volevo dire al buon Parenzo. Scusami Diego, 200 artisti, ecco l'ho trovato, 200 artisti che firmano Diego un manifesto sulle Monde, chiedendo di non tornare al consumismo dopo la pandemia. Questi signori, Juliette Binoche e altre persone, molto bella, che dal bordo delle loro piscine, dall'alto dei loro attici, delle loro ricchezze giuste, giustamente ottenute, eccetera, i vari, tu che cos'hai? C'è in fonda Penelope Cruz in Umbria. Aspetta, dicono che bisogna consumare di meno, che dopo questa crisi bisognerà ma andate a fare in culo, voglio consumare di più dopo, molto di più, non come prima, molto. Questo voglio dissipare tutto, no, dissipare, non ci rompete sbagliato i coglioni con queste consumare cose, che dobbiamo essere più moderati dopo, che dobbiamo essere un po' più parchi, che dobbiamo rispettare l'albero che prima rispettavamo lo stesso, anzi, beh, forse sì, troppo, anzi forse certo, troppo. Che cazzo volete voi, che cazzo volete i vari, chi sono questi qua, chi sono? Chi sono? Juliette Binoche, che coinvolge Madonna, De Niro, Jane Fonda, Penelope Cruz, Almodovar, Monica Bellucci, Sorrentino, comunque seria, ragazzi, mi pare. Tornate a consumare non uguale, il triplo, il triplo, il triplo. Diego, dimmi. Ma su questo che stai dicendo adesso è una cosa, nel 1918 quando c'è stata la spagnola si consumava molto di meno, e quando c'è stata la peste non si consumava niente. In quel momento la natura ha dato i suoi segnali lo stesso, quindi vadano a fare il culo veramente, questo non c'entra proprio un cazzo. Dimmi, no, la volpe. Il virus si trasmette. La volpe ruba. Questa volta il buon Parenzo, no, è da fatta veramente fuori dal vaso, perché nel suo lavoro antifascista, ridicolo, e antistorico ormai. La volpe. È veramente da una tenerezza, perché quando lui dice mostriamo la foto di Piazzale Loreto, dove c'era la Rita Petacci appesa a 13 cioè piedi, mostriamo la foto come mascherina, diciamo, sì, nella mascherina, come la mascherina, nella mascherina, no? Come la mascherina. Sì. Non solo avvalla la pena di morte, e questo è contro i suoi principi, no? Perché allora Mussolini è fatto da un bene ammazzarlo, mentre la pena di morte è per stupratori, assassini, delinquenti. Sono alcuni casi in cui anche Eichmann fu condannato a morte. Non andiamo sul particolare, Diego. Non ci trova niente. E in più Mussolini ha fatto cose importantissime. Quando finisce una dittatura, ci sono anche cose efferate. Sta dicendo che Mussolini ha fatto cose importantissime. Ma sì, ma povera, ma è una Diego, ma di chi parliamo? Parliamo di un signore che si chiama Diego Volpe. Ma ragazzi, ma di chi stiamo parlando? Adesso come si chiama? Si chiama uguale. Non è uno storico, ma no, è Diego, non è De Felice, è Diego Volpe Basile. Perché devi trattare Diego Volpe Basile come un imbecille? Perché non parlo di storia con Diego Volpe Basile. Lo stai trattando come un imbecille. Diego Volpe Basile è un signore che ha inventato dei movimenti politici che prendevano lo 0,1%. Andate a vedere, è una persona intelligente e brillante. Ogni volta che leggeva un titolo su un giornale, andava a depositare il marchio e inventava un partito. All'epoca di Haider, ad esempio, il governatore lì dell'Austria, lui subito italiani per Haider, mi pare si chiamasse così, se non mi ricordo, e depositava il simbolo. Cioè è un signore che legge una notizia, registra, perché è così, perché non è uno storico. Cosa parla di storia? Di storia io parlo con Paolo Mieli, ad esempio, posso parlare di storia con Gentile, con Emilio Gentile. Questo paese. Poi ha fatto errori pazzeschi e immani. Sua eccellenza di Mussolini con Diego Volpe Basile. Per quale motivo? È stata una tragedia, sì. Per questo è una vabbè, ma ho capito. Ma tu la metteresti una mascherina con l'effigie di Mussolini sopra? Questo è il punto fondamentale. Al di là di abbiamo messo etichette sui vini. Abbiamo voluto vino con l'effigie di Mussolini per 50 anni. Cioè, secondo te non c'è niente di male avere una mascherina con Mussolini sopra? Diciamo, non eravamo un paese libero. Torneremo a essere un paese libero anche di valorizzare quelle che sono state le cose positive fatte da Mussolini. Ma che ci valorizzare? Ma che scemenza senza è? Ma che scemenza è? Mettiti quella di Rina, allora. Mettiti quella di Rina. Anche Rina avrà coltivato un campo un giorno e avrà reso. Tu confondi. Criminali. La mafia due criminali con uno statista. Che ha fatto un errore. Due criminali. Fermi tu, uno statista. Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio. Giro a piè ma non è sopra il ciel che voglio un aeropla. Bimba attacca lascia pè. Roma è bella dice il re. Culo sopra una lita. Quando la manda mon frère. Ruben Sosa. Non tengo i piedi per te. Cose nell'età. Nella mia spra. Cucarraccia nelle scafrate. Sembra tuari. E che cos'è? Sembra di stare a tuari. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo. sembra di stare a Quari. Signorina, ma perché le pare che noi abbiamo l'aria da teppisti? Per carità, mai detto una cosa simile. Ma no, e che le sembra che siamo, signora? Ma no, niente. Perché non scendete dalla macchina? Non siamo mica a Tuarì. È che siamo in ritardo, dobbiamo lavorare, stiamo già sforando. Ah sì, state un po' sforando. E che vi serve? Una storia tutto sangue da far venire il vomito per montarci uno scoop? Ma la volete smettere? Ma se non guarda che la piazza a casa nostra, puttana di una bianca di merda, vattene a fa' culo tu. Calmatevi, ce ne andiamo. Fugati, film, guarda che stronzo. Non sei mica a Tuarì. Fammi una foto coi fra, fa la foto a Tuarì. Sembra di stare a Tuarì, sembra di stare allo zoo, sembra di stare a Tuarì, sembra di stare a Tuarì. E che cos'è? Sembra di stare a Tuarì. E che cos'è? Sembra di stare allo zoo, sembra di stare a Tuarì, sembra di stare a Tuarì. Ma andate a cagare, va, giornalisti di merda, va, siete delle merde, basta, fanno bene togliervi i soldi. Vi ordino di telefonare al numero di sovraimpressione. Chi è? Come mai non telefonate? E che succede? Coglione di un Cruciani, ma stai vedendo il macello sui Navigli? Lo stai vedendo? Come no? Poi non rompere i coglioni, il sud. Gli incivili sono al sud. E chi ha parlato? I barbari sono al sud. Ma per favore, per favore. Siete comunque incredibili, siete incredibili. Siete incredibili. Tu e queste persone che chiamano, caro Parenzo. Ma io cosa c'entro? E queste persone io, che chiamano. Anche tu c'entri. Sono comunque allibito dai comportamenti di alcune persone, in particolare da questi che sono andati giustamente a farsi un aperitivo, a prenderlo che doveva essere take away, e poi ci sono fermati lì davanti a fare gruppo con un gruppo di amici. Cosa che avremmo voluto fare tutti, cosa che vorrei fare anch'io ogni sera, eppure non faccio perché sono più stupido degli altri, secondo te? No, ma semplicemente perché questi qua non sono stati, non c'è stata vigilanza. Queste persone ma qua io non le perché non lo faccio? Sotto nella zona di casa mia c'è ad esempio un bar molto noto dove fanno degli aperitivi, il take away. Allora? Secondo te sono più stupido degli altri che non ci vado a farlo? Non mi do appuntamento con degli amici? Amico mio. Sono più stupido di altri? Ma non a me danno fastidio questi comportamenti qua di queste persone che sono egoiste alla fine. Perché comunque tutti c'è noi una vorremmo ma io ho una socialità che è superiore alla tua, che sei un vecchio burbero che non ti vuole un cazzo di nessuno perché manco ti lavi. Ho una socialità assolutamente superiore e quindi ci andrei immediatamente. Mi sto male a rimanere chiuso in casa tutto il giorno. E allora cosa significa questo qua? Poi arrivano i furbetti. Ma non i c'è nessun furbetto, capito? Se tu apri la possibilità, ti ripeto per l'ennesima volta, di andarti a prendere uno spritz sul Naviglio e portartela a casa, è chiaro che la gente te lo resta porti lì a casa, no? Poi c'era molto più passaggio. Te lo bevi in zona, molto più te lo bevi in zona, ti sposti di 300 metri, 400 metri, vai in un altro posto meno affollato. È stato tutto anche un po' esagerato. E comunque la colpa è di chi non ha vigilato, non di quelle persone lì. La colpa è di chi non ha vigilato, esattamente del sindaco di Milano, che invece ha detto vergogna, vergogna, vergogna a quelli là. Questo è il punto fondamentale. Questa è la cosa fondamentale, fondamentale. Intanto ti faccio sentire un grande scontro tra Librandi e Morelli sulla regolarizzazione degli immigrati. Fantastico. Librandi, Italia Viva, Morelli, Lega, naturalmente. È un permesso temporaneo. Quindi dici, siccome è temporaneo posso balle, stare nella favela. Ma cosa avete bevuto al governo? Ma cosa bevete al governo? Dire la verità. Siccome sono regolari vanno bene le favelas? Vergognatevi, vergognatevi e pensate agli italiani. C'è uno che odia le persone, capisci? Non devi ragionare con la testa. Devi io non fare posso il avere rispetto di chi non ha rispetto degli italiani. Voti. E porti rispetto agli italiani. Italiani. Cioè, gli italiani hanno bisogno di alcune cose. Gliele dai te, vai te. Che soldi! Pensate agli italiani, dategli la cassa integrazione, vai tu, alle aziende, a parlare. E invece 600.000 immigrati clandestini, ma per favore, dai, certo. Ma per favore. Come? Hai capito? Facci tu a raccogliere gli affari. Non si preoccupi, ho fatto agraria e ne ho raccolti ben più di lei. Muto, Librandi, muto! Come lottano, signor Librandi e signor Morelli, ovviamente in quale trasmissione, in quale emissione televisiva, caro David? Quale guarda, emissione televisiva? Non faccio fatica a credere, dunque escludo la 7, lo escludo, diciamo così. Posso supporre che ciò sia avvenuto in un'ottima televisione locale, oppure viceversa in una trasmissione di Rete 4, che non saprei distinguere se chiamasi Fuori dal coro, eh? Oppure Dritto e storto, o come foro si dal dritto coro, e... come dice l'altra, foro dal coro, foro sì, dal fora coro. Di ball, bisognerebbe chiamarla fora di balla quella serie. Via fora di balla. Poi c'è un ottimo Librandi che se la prende a un certo punto con una gelataia, con una gelataia che è incazzata. Perché a me piace quando Del Debbio vede che scoppia la polemica forte, dopo un po' fa andare, poi dice vabbè, dai su, come vabbè, ma come vabbè, però... perché vabbè. Senti questa cosa qua, la cellulare, però su, scusa, ma non può intervenire Abdellah Bakebici per i suoi due denti? Tu fatti curare dal palestinese, là, com'è? Abdallah Kabakebici, no, che cazzo è siriano? L'amico Siria e milanese. Benissimo, chiamasse Kabakebici. Sta a Milano. Chiamasse Kabakebici, non mi interessa, Abdallah, per un consulto. Il grande Benissimo. No, sono i giorni di Ramadan. Cosa fare? Qua, ma che cazzo vuol dire? Che però non puoi parlare durante Ramadan? Non puoi parlare durante Ramadan? Vuol dire che fa il digiuno dall'alba al tramonto. Ma non può parlare durante Ramadan? Che cazzo che di roba è Ramadan? Non puoi parlare? Digiuni, va bene, d'accordo, grande rispetto, puoi digiunare, fai cazzo che ti pare, ma poi ma potrai parlare, no? Potrai parlare durante il Ramadan. Ma che religione è che non puoi parlare? Ma che roba è? Fai il Ramadan, non parli. Non può parlare. Non puoi parlare. Però magari sta a digiuno senza bere e mangiare, perché mangiano la notte, ma la mattina presto alle 5 cosa, e poi ti pare normale? Ma ti pare normale che c'è una religione che per un mese non mangi? Che per un mese non mangi? No. Non mangi durante il giorno per un mese, ma mangi la mattina alle 5. Ma perché e poi la mattina fino alle 5? Ma che roba mangiare. È? Ma perché? Ma che roba è? Ma uno ci crede. Ma ragazzi, ma riflettete su questa cosa qua, perché è interessante. Io, vabbè, sono ateo, d'accordo. Ma perché uno c'è una religione in cui tu ti alzi alle 5 di mattina? Ma alle 5, cosa te ne frega poi a te? Mangi, ma poi tu vai a tu, ad esempio, fai altre cose, tu vai a correre, fai altre robe. Cosa fai? Ma perché uno deve fare sta roba in Ramadan? Perché? Ma no, guarda, me lo sai lascia spiegare stare che perché? Non racconto quello perché? Che fai tu. Allora guarda, Dio non voglia che io racconti quello che fai tu. Tu prendi in giro il Ramadan, tu fai ma altre cose. In giro, vorrei capire, tu fai vorrei altre... capire, guarda, amici voglio, islamici, ma voglio neanche dirlo. Capire. Non ma voglio neanche dire per un cosa mese fai uno, tu. Uno si deve rompere i cabasisi, alzarsi alle 5 di mattina a pregare, me lo vuoi spiegare nel il 2018, nel 2020? Che... perché? Sta scrivendo, perché? Eccolo qua. Mi sta scrivendo Abdallah in questo momento. Abdallah, mi sta scrivendo. Allora, caro Abdallah, il mio problema è quello alla gengiva. Mi si è abbassata la gengiva e quindi mi esce il dente sotto e mi fa pensate pure freddo. Cosa devo fare? Ma no, niente. Ma non si vede perché. Chiama per piacere all'800 24 0024. Ecco. Abdallah Kabakebici, ti prego. Chiamasse. Roba pazzesca, pazzesca. Ecco, pazzesca. Sta scrivendomi. Filippo però, da Treviso, vai, Filippo da Treviso, forza. Filippo da Treviso. Eccomi. Dimmi. Da seguace di Salvini quale sono? No, c'era la gelataia da far sentire. Ecco, comunque, mi vai, ha scritto Ramadan, scuola di felicità, gli farebbe bene a Cruciani, mi ha scritto Abdallah adesso. Ma quale Ramadan? Ma che roba è scuola Ramadan? Ma che scuola di felicità, che è un sacrificio enorme, ma di che parliamo? Ma si può scopare durante il Ramadan? Per curiosità, no, si può... non credo. Ah, non si può scopare durante il Ramadan? Cioè uno fa il Ramadan e non si può scopare? Non credo, no. Glielo vuoi chiedere col messaggio per fuori ad Abdallah Kabakebici? Dice Cruciani, durante il Ramadan si può scopare? Allora, intanto non è difficile. Abdallah sì. Kabakebici. D'accordo. Non è difficile per d'accordo. Abdallah Kabakebici. Vuoi chiedere al tuo amico Abdallah Kabakebici, per favore, chiede Cruciani che durante il Ramadan si possono, ti sta sentendo. Si possono fare attività erotiche? Si può... Non credo. Ma no, non ma credo, chiedi, non lo so, chiedi, non credo. Lo so. Filippo, vai. Adesso mi risponderà. Sì. Eccomi. Da seguace no, di Salvini, quale sono? Uomo di destra, non avrei mai pensato. Sono d'accordo con David. Sono d'accordo con David. Ma su Navigli. Che cosa? Su Navigli, su Navigli. Ma ragazzi, ma non Navigli non è successo un cazzo. Quattro cazzoni. Ma non è successo un cazzo, ragazzi. Perché è colpa di Sala? Per quale motivo? Ma certo, colpa di Sala? Ma i Navigli vanno presidiati. Ma cosa c'entra? Ma quelli hanno sbagliato, non c'è dubbio. Quelli che si sono fermati a parlare senza tenere le distanze e senza mascherine, non c'è dubbio che abbiano sbagliato. A parte che succede praticamente, diciamo la verità, in tutte le città italiane. Io ho delle immagini che vengono dal Veneto, dappertutto, di gente che praticamente a contatto di gente che chiacchiera, soprattutto giovani, eccetera. Ma in ogni caso, ma nessuno adesso dice come mai no, a Napoli, no? Perché io ma lascia perdere Napoli, ma no. Come mai a Napoli? Ma è tre mesi che battiamo, ma è tre mesi che parliamo di Lombardia. Ma è tre mesi che io sto dicendo che c'è il caso Lombardia e senza la Lombardia saremmo tutti più liberi. Di cosa stiamo parlando? Di che cosa mi accusi? Come se non avessi puntato il dito anch'io sulla Lombardia. Sto dicendo che siamo agli arresti domiciliari ancora, senza libertà di movimento, per colpa della Lombardia. Non lo so quello che è successo là, chi è. Pare da alcuni gestori di locali che ci sia stato un venditore abusivo di non so quale bevanda che abbia di birre, probabilmente che ha. A maggior ragione, non c'era controllo. Il problema non è di quelli che fanno i venditori abusivi, di quelli che si fermano, di quelli che chiacchierano. Se non c'è controllo. Non c'era abusivo. Se no, sì, pare comunque, di sì. Gesto, ragazzi, vai a leggere. Per partire si sta a casa o in carcere. Non era abusivo, uno di quelli in bici sarà stato praticamente uno spin-off dei cosi, uno spin-off dei bar che stanno lì. No, sai, quelli che girano peggio ancora. Ma fuori l'esercito. Ma quel problema non è l'esercito, il problema è che ai Navigli te lo potevi aspettare, invece quello il giorno dopo se ne accorge. Ciao Sergio, provincia di Treviso, sempre. Ciao. Dai Sergio, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto? Dimmi. Niente, io parlo sempre da Treviso e sono arrabbiato questo governo del cacchio che abbiamo, perché noi in Veneto abbiamo messo a norma tutto. Sì. Abbiamo fatto oltre 400.000 tamponi. Sì. Facciamo abbiamo fatto il terzo giro su tutte le RSA, su tutti gli ospedali. Sì. Abbiamo tutte le AS pronte per intervenire per i focolai. Abbiamo il piano pronto per gli asili, non lo approvano per via di sostenere i bambini che quelli che vanno a lavorare. Vabbè, allora è pronto e non lo approvano. E secondo me questo governo deve andare a casa, stop, perché o ci danno la possibilità di aprire o facciamo la rivoluzione. Ma aprire cosa? Scusa Sergio, aprire cosa? A parte che in Veneto apriranno prima degli altri, ma insomma no, aprire cosa? Che senso ha tenere aperto il bar, tenere chiuso il bar e i ma adesso fra 10 giorni apriranno, fra 10 giorni? 10 giorni, noi siamo pronti già da 15 giorni. Ma tu sei un barista? Eh? Tu hai un bar? No, ho degli amici che hanno dei bar e hanno ragione, perché hanno investito tutto per la protezione, per tutto, speso i dettagli, abbiamo le task force che sono due mesi, cosa ci danno? Che dobbiamo mettere le mascherine, il distanziamento e il gel. Ma quelli lo sanno anche i bambini, lo sanno queste cose qua, cosa bisogna avere? L'altro con le mascherine. E allora noi in Veneto abbiamo 10.000 dottori. E allora, no, ma Sergio, tu hai perfettamente ragione, infatti in Veneto si arriverà prima alla riapertura, poi tu dici facciamo la rivoluzione, ma come la vuoi fare questa rivoluzione? No, nel senso che siamo 10 giorni che siamo pronti per partire e ogni giorno non si sa quando aprire questo qui, ma ci danno una data che si prepari, vanno via e si apre. Allora abbiamo aperto, allora un altro dato, il 4 maggio su 4 milioni di persone 1.200.000 sono tornati al lavoro in Veneto, ma le altre regioni che cacchio fanno? Scusa tanto. Ciao Sergio, ciao. Dove sei, Veneti? Ti faccio sentire, caro David, così sarai contento, un deputato della Lega in Parlamento che ha parlato di zecche rosse che partecipano al 25 aprile, al 1 maggio, eccetera, mentre multano i commercianti a Milano, che non c'entra un cazzo, ma comunque. Toccalini, mi sembra che si chiama Toccalini questo signore, vai. Trovo abbastanza vergognoso che in questo paese, con tutte queste limitazioni valgono solo per chi la pensa in un certo modo, perché ricordiamolo anche a quest'aula, il 29 aprile quattro ragazzi stavano andando a portare una corona per ricordare Sergio Ramelli e sono stati multati, mentre nel frattempo il 25 aprile e il 1 maggio abbiamo assistito a cortei delle zecche rosse che sono rimasti impuniti, perché in questo caso non abbiamo visto una multa, che in questo paese se sei di sinistra e se sei comunista a questo punto per te non esistono le leggi e sei libero di non rispettarle. È da tempo che non sentivo l'espressione zecche rosse in Parlamento, a scuola, no? Ah, sì, a Roma, negli licei, negli anni 70-80, roba morta, zecca, finita. Fascio, i ragazzi di vent'anni di oggi, quelli che ci ascoltano, non sanno un cazzo di queste cose qua, se ne sbattono i coglioni. Ma infatti è patetico questo personaggio della Lega, è patetico usare il termine zecche, patetico. Chi era quel cretino di poc'anzi? Appunto, grazie. Federico D'Ancona, vai, Federico D'Ancona. Dimmi Federico, dimmi. Senti? Sì, ti sento. Ascolta, no, io ti volevo dare un consiglio. Che so che ti può interessare, magari l'ambiente del porno, ecco. No, so tutto dell'ambiente del porno. Vedi, la gente chiama apposta per darti consigli, vedi. Ascolta, l'hai provato il porno in realtà virtuale? No, non mi interessa, amico mio. Dai, comprati un visore che tanto non mi interessa, me l'hanno offerto di vedere, non me ne frega un cazzo. Già i porno non mi piacciono, in più i porno virtuali non mi piacciono. Esther da Milano, vai Esther, dimmi. Dai, io sono stufo di sentirlo sempre abbaiare dietro a anche quei poveri ragazzi lì che vogliono regolarizzare, no? Ma quei ragazzi lì prendono 3 euro all'ora, dormono nelle lamiere, e lei abbaia sempre con quella gente lì. Ma abbaia chi? Non è vergogna. Ma abbaia chi? Se stai starnazzando, tu stai starnazzando. No, io starnazzo sempre, ma io sono meglio di lei. Tu sei un'anatra che starnazza. Taglia e medica, prima offende e poi per un altro modo. Ma guardi, ma mettendo una mano alla coscienza, se ti prende la così si forma la delinquenza. Ma quale delinquenza, di che cosa? Questa è matta. Con i piedi, dalla mattina alla sera, bisognerebbe che voi strisciate per un mese, basta un mese. Ma questa vuole regolarizzare 600.000 persone. Questa vuole regolarizzare 600.000 persone. Ma non è la sola. 600.000 irregolari. Lo ha già fatto. Ma quello che c'è, fammi sentire questa che starnazza. Fammi sentire. No, sparla lei. E io avrei vergogna di andare in strada come tanti amici suoi che in televisione è arrivata la ruspa. È arrivata la ruspa, ma dentro. Quale ruspa di che? Dei poveri cristi che da un giorno all'altro non hanno avuto più niente e sono sbattuti di qua e di là. Ma di chi stai parlando? Così si forma la delinquenza. Ma la delinquenza già c'è. Lei non è cretino, non è un scemo, neanche un po' di intelligenza ce l'avrà, però se la smettesse. Cioè, non ho capito, uno è a favore della regolarizzazione, ecco, dei migranti, oppure è un cretino, cioè, oppure è un imbecille. Ma dai, su. Lei non è a favore. Esther. Perché lei dovrebbe avere i figli e fare la vita che fanno qua. Perché ci sono anche i nostri, ci sono anche i nostri. La signora che è morta nei campi 2 anni fa, era una siciliana, non era. Mettete una mano alla coscienza e finisce la questa radio. Ma di cosa qui stai parlando? Questa radio qui è bellissima. La sento tutta, ma la sua non si può, perché lei chiudiamola. Io non voglio che la chiudano. E allora io non rompa i coglioni, perché non si può. Se lei sempre con i poveri cristi ce l'ha. Se uno dice una cosa, basta che viene di sinistra, ma qui che non c'è né sinistra né destra. La sera si legga un bel libro, si veda una bella serie in televisione, si legga un bel beautiful, si veda qualche cosa. Non faccia l'anatra starnazzante qui, non rompe i coglioni. Ma perché rompe i coglioni di poco, dai, Esther. Perché bisogna maltrattare così gli ascoltatori che chiamano? Io penso che sia veramente un unicum anche da questo punto di vista la trasmissione. La gente chiama, in nessuna radio viene, le persone vengono insultate in questo modo, viceversa, in nessuna radio neanche i conduttori vengono insultati con questa odio dagli ascoltatori. Cioè, io credo che tutto insieme debba farci pensare che bisogna chiudere questa trasmissione. Eccoci grande. Qui avanti. Allora, la notizia di oggi su cui si discute è questa cosa dei Navigli. Il sindaco di Milano prima non fa un cazzo perché non manda i vigili lì a controllare la situazione. Il giorno dopo si indigna perché 4 persone si riuniscono all'aria aperta a prendere un cocktail, si fermano, si bloccano lì, parlano tra di loro, alcuni anche in modo ravvicinato, qualcuno con la mascherina abbassata, non so, qualcuno, altri passeggiavano sui Navigli, e il giorno dopo dice immagini vergognose, o si cambia o chiudo. Qual è il giudizio di Vittorione? Beh, il dato è oggettivo. Finalmente ho trovato il più grande studioso, non virologo, ma di virus, che sostiene che l'unica forma di salvezza è stare all'aperto, e la mascherina all'aperto è dannosa. Ma chi è? Perché all'aperto non ti può. Certo, la vicinanza può essere. Quindi una volta tenuto un metro di distanza, non so se l'abbiano fatto i Navigli, stare all'aperto è l'unica forma di sanità. Andare in bicicletta, stare in un bosco, stare anche sui navigli, sì, è ridicolo. Ci hanno dato delle misure contro la medicina più semplice, no, che ha sempre però, detto sì, a bambini ma, e vecchi di stare all'aperto senza problemi. All'aperto non prendi niente. Ma sì, chi non stare tutti insieme, quello è il tema. Cioè, tu hai ragione, Vittorio, sicuramente bisogna stare... Tutti. Ecco, appunto, esatto, questo è il tema. Non era un ovvio. Comizio. Non era un comizio, dai, non era un comizio, non era lo stadio. Solo nei concerti e nei comizi puoi avere l'assembramento. Poi, tra l'altro, la parola distanza sociale è una mortificazione dei principi da Rousseau alla democrazia. Distanza fisica, la distanza sociale è razzismo, è paura. Si chiama distanza fisica e assembramento è una parola con cui tu cerchi di denunciare la socialità. Socialità è il rapporto degli umani che sono legati l'uno all'altro. Se poi vuoi dire a persone che hanno intelligenza state distanti, basta una raccomandazione, non ordinare di non andare sulla spiaggia, quello è criminale. Tre persone in casa sono molto più in pericolo che non su una spiaggia da soli. Dunque non è successo un cazzo, dunque non è successo un cazzo se lo dai sui navigli, perché parlano di non folla dei navigli. Da, ma, non si è, ma non c'è nessuno si è baciato e toccato, erano lì e qualcuno si sarà avvicinato allora, più di altri. Lui è un uomo impaurito che si vergogna perché teme qualcosa non sapendo niente. E certo, quando non sai niente hai paura di tutto, questo è il problema vero. E non è scienza, è scemenza. Io non so niente, quindi vi dico state a casa, che è peggio che stare all'aperto, perché in un parco correvi meno rischi che stare in casa. Uno va a lavorare, torna ma a casa. Ma con chi hai parlato di recente? Chi è sto medico con cui hai parlato, che ti ha illuminato da questo punto di vista? Tangeris. Come? È un Tangeris. Mario Federico Tangeris. E dal punto di vista del rigore assoluto, l'aveva già detto d'altra parte Garattini, stare all'aria aperta è l'unico modo di non prendere il virus, il quale virus è tra l'altro ucciso dagli alberi, quindi in un parco non lo prendi neanche se cerchi di catturarlo tu. Comunque Galli a dire delle verità semplici. Comunque, Vittorio detto, ha ragione aperta. Vittorio ha perfettamente ragione, è quello che ci dicevo, il buon senso ti farà da guida. Dopodiché, se tu però hai un assembramento, cioè 10-20 persone che bevono un aperitivo fuori da un locale, in questa fase purtroppo è una rottura di coglioni, ma non si può fare. Allora però, lì quello che io dico è prima di hai annunciare, ragione, ma quello dati, che io dico, vediamo. La differenza tra me e Cruciani, che vede Cruciani vorrebbe l'esercito dappertutto, io dico no, ci vuole un no, po' no, di responsabilità no, individuale, io lo volevo non è che devi prima, mandare i vigili a rompere i coglioni ovunque, ognuno sia responsabile di se stesso, non è che si può demandare sempre tutto allo Stato. Della mia infanzia, io sono nato sul Po, il mio massimo desiderio con quelle belle spiagge dove poi sono andato con il motoscafo a fare lo sci d'acqua, era fare un bagno nel Po. Non l'ho mai fatto perché mio padre mi ha detto durante l'alluvione quelli che andavano per acqua rischiavano di morire per i mulinelli. La parola mulinello è stata sufficiente da farmi fare mai un bagno nel Po. Per cui se io ti dico una cosa certa, non me la devono dire certa, io da solo capisco di salvarmi la vita. Non quando dicono una cosa un giorno, una cosa l'altra. Il Parlamento, che è il luogo di massima riunione e che non hanno chiuso subito, solo il 20 aprile ha imposto le mascherine. Il 5 aprile il signor Borrelli, che è un mio ammiratore, mi dicono, ha detto io non la porto, non mi devo rompere il cazzo, la portino in casa, ma all'aperto è accertato che la mascherina è inutile. E ma tu non la porti dunque, oggi che sei in giro non la stai portando? La tenevo con l'amica Gribaudi ribassata e hanno fatto la solita morale. Addirittura ho visto uno che guardi il dottor Tangeri dice che è sbagliato portare la pelle, lo so, ma la porto lo stesso. Se uno vuole farsi del male da sole, se lo faccia, si autotrasmette il virus che all'esterno muore. Qualcuno, scusa, lo dico come se fossi uno scienziato che sa tutto, perché è tutta la vita che l'aria aperta è raccomandata ai bambini e ai vecchi. Scusami, Galli dice, Galli, l'infettivologo Galli ormai è diventato una specie, Galli. Dice Galli, Milano è una bomba, troppi contagiati già usciti di casa. Ma dice fra poco... Questo riguarda i contagiati, lo sa lui. Però mi deve spiegare perché a Gismondo, sempre ospedale Sacco, ha sempre detto che era un raffreddore. Quindi si mettono d'accordo almeno tra loro e non diano agli italiani delle menzogne come se fossero verità. Stare all'aria aperta è la massima forma di salute, non ce n'è un'altra superiore a questa. Comunque quindi, tu stai girando tranquillamente, mi sembra, in questi giorni. Hai ricominciato a girare. Faccio il sindaco e il deputato, quindi provo a trovare il sindaco di Venezia per vedere come riaprire, però vi do un'altra indicazione. Sì, negli allegati, ti dicevo oggi, dei primi decreti di PCM ci sono una serie di persone esentate. Una di queste figure corrisponde alla nostra: attività professionali, scientifiche e tecniche. Quindi chi va a lavorare in televisione, chi va a fare una perizia per una qualche ragione, fa attività professionale. Si chiama codice Pedeco 74, quello... è quello che consente a voi di uscire. Quindi non usino anche lì. La legge anche applicata ti dà questa possibile deroga. Come senti, ma io non ho capito, uno come Brusaferro, a te ti piace Brusaferro? Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, signor Brusaferro, è uno che ti piace, questi qua, che tra questi virologi che tu non sopporti, quelli che non sopporti, sì, di più, chi sono? Cioè quello che quando vedi in televisione qualcuno e proprio vorresti spaccare il televisore, chi è? Beh, è stato bocciato in quella lista della Scopus che è apparsa nei giorni scorsi, molto precisa. Però di fatto a me non dispiace, perché lui ha dichiarato una cosa che sembrerebbe all'opposto: ha dichiarato che morti accertati di coronavirus sono 19. Perché l'Istituto Superiore della Sanità, 19, adesso c'è una mortalità, la mortalità è cresciuta. Perché ha indicato la mortalità specifica, 19 persone. Gli altri, pensa il povero Gregotti, il povero Celant, sono morti di diabete o di altre malattie aggravate. Aggrava tu vai la tu. Salvini, ma lei fa i bocchini. Sì, io vedo molto negativo. Tu, Crugiani, in questi due mesi si è mutato come il virus, si è passato dal dire esercito, ci vuole l'esercito, la delazione, bisogna denunciare, a difende Ferguson che ha violato le regole per farsi una scopata. Cocco mio, fai pace con lo cervello, fai pace con lo cervello, se no tocca a darti una capocciata tra naso e denti, cocco mio, datti una carmata, fa pace con lo cervello. Oh, c'ha pure ragione questo, o no? No. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN. Eccomi qui, a tutte le persone che mi dite questa fa sempre video, questa sta sempre a fare propaganda. Stamattina, incazzatissima perché non mi hanno fatto passare per andare a Montecitorio, no, loro non sapevano Montecitorio, io ho detto devo andare in centro. A fare cosa? Ma a fare una passeggiata. Non è possibile andarsene in centro a farsi una passeggiata. Ma chi l'ha detto? Non è vero. Non è possibile. Io ho fatto la richiesta all'INPS, è stata accettata, perché è una commercialista che tra l'altro non ha solo me, c'ha tre quarti di Roma, della zona dove è lei, va bene? Quindi non credo che ha uno studio per optional, ha uno studio che avete anche, siete stati anche, sono stati queste persone che hanno anche criticato la mia commercialista, ignoranti, perché non è una commercialista per optional, fa questo mestiere. E ve la prendete con me? Ci sono pure coglionazzi che con la radio mi chiamano col culo coperto a prendermi in giro sulla salute mia, sulla mia dignità. Vi dovreste vergognare, mi fate dignità? Schifo. L'Italia va male perché siamo un popolo anche così, tempo da di merdosi, perché non abbiamo il coraggio di affrontare questi cornuti e fittusi politici. Ogni 5 secondi cambiano questa cazzo di regola dell'INPS. Però, attenzione, l'altro ieri mi sono arrivate le rate dell'INPS da pagare, che posso anche posticipare fino a settembre. Chi è? Poi non devo essere volgare? Devo essere volgare, devo essere troglodita, devo essere ignorantissima, devo essere ignorantissima. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Gianvito da Milano, vai Gianvito, vai Gianvito. Il vero problema è la mancanza di escort qui a Milano. Ma guarda che si trova quello che vuoi volendo, eh. Cioè, si trova quello che sì, vuoi. Sì, si trova, però si trova, puoi trovato, fare il cazzo che ti pare. Puoi fare, aspetta un attimo, aspetta un secondo, aspetta un attimo. Aspetta un secondo. Eccoci. Ecco, infatti. Non c'entrava. Non c'entrava niente. Beh, comunque è vero simile. Clementi! Emilia! Emilia! Ho strappato l'Inps! Emilia, vogliamo parlare con la tua... L'Impese, l'Impese! Comunque non hai rispetto per gli estetisti, sei incredibile. Non hai rispetto per gli estetisti, sei incredibile. No, ma tutt'altro, ma perché gli estetisti? Ma non, è una questione, io, no, ma non è una questione di che lavoro uno fa. Assolutamente, è una questione di cosa uno dice. Quella per me può essere anche un notaio, un magistrato, o una docente universitario, ma io valuto quello che uno dice, non il lavoro che uno fa. Io non lo so neanche, io manco sapevo che lavoro facesse quella signora simpatica lì, basta, nulla. Abdalla da Milano, fermi tutti, forse Abdalla Capocchiaggi, fermo, eccolo qua. Abdalla? Buonasera, ciao. Eccoci qui, eccoci salam qui. Salam aleikum, fratello, salam aleikum. Salam aleikum. Ciao a tutti. Sì, buonasera a tutti. La domanda non è risposta. Ciao, se David. Durante il Ramadan si può fare sesso, eh? Non è risposta a questa domanda. Comunque, vabbè, non, se no... una volta tramontato il sole si può fare senz'altro e mi insegni che l'astinenza migliora il tutto, no? L'astinenza non migliora mai nulla, cioè l'astinenza non no, l'astinenza ragione, aumenta il desiderio, ha ragione. Ma se quello Abdallah. In generale, ma d'accordo, perché Abdallah. Con Ramadan, non ho capito. Ma non ce l'ho fatto con Ramadan, io dicevo sì, appunto, bravo, no, esatto, io dicevo perché? Semplicemente esatto, una cosa, esatto. Mi pare assurdo, io che sono, per carità, avrò un difetto, che sono ateo, che ci sia un qualcosa nel 2020 che uno si debba svegliare alle 5 di mattina per mangiare non so che cosa e poi non debba digiunare ma che tutto male, il giorno. Cosa ti fa? Ma cosa non lo so, mi sembra perché a che scopo, qual è? C'è sempre stato, è una specie di educazione, una specie di scuola, eh? Vabbè, comunque Parenzo, che cosa può fare per questo buco che si è fatto, ecco, nella cosa? Una cosa gravissima, no, che è successo. È la gengiva che si è ritirata, capito, sì. Abdallah? E quindi sì, mi hanno consigliato di mettere questo Curasept, trattamento sì. protettivo allo 0,2 allo di 0,20, clorexidina, sì. Sì. clorexidina. Mi sembra che ci sia bisogno sciacque. Anche di fare un intervento chirurgico molto molto intenso, molto grave, ha detto, no? Che forse bisogna... Beh, molto grave adesso, cazzo. Si tende alla mini invasiva, si tende a risolvere in maniera invasiva, ma sono sicuro che sarà. No, no, io sono benissimo. Secondo me ci sarà da fare un intervento chirurgico di una certa gravità. Ti mando la foto, fratello mio. Cosa ti mando la foto? Ma qui ci vogliono le telecamere, ci vogliono in diretta. Il grande dottor Abdallah Kabakebji, italiano, originario della Siria, ma italiano. Grazie per essere venuto in Italia. Ma perché grazie? Sta qualità, ma perché grazie? Ma perché grazie? Abbiamo un cervello in più qui e bisognerebbe invece mandare in Siria qualche cervello dei nostri, questo bisognerebbe fare, di quelli che chiamano qui, bisognerebbe mandarli. Scusami Abdallah, mi Siria. Sembra che da quello che ha detto Parenzo la situazione sia molto grave del suo dente, mi sembra che ci sia bisogno addirittura, non dico dell'asportazione, ma insomma una cosa gravissima, un intervento molto invasivo, da quello che mi hai detto... Si tende a conservare tutto il possibile ormai, non si toglie. Comunque c'è un bel buco, si vede il dente da fuori, sapete, è scomparsa la gengiva e c'è un enorme no, buco. Da... No, però si è ritirato, ma sì, c'è sì, poco da ridere. È scomparsa, dai, è si vede il dente da fuori. Ma perché succedono apre, queste cose? Da cosa dipende, dottore? Lasciamo ma lì sono varie cose. Ci vuole una visita, ci vuole un incontro, un'alimentazione magari analcolico, alimentazione, no? Sesso sbagliato, io non dico niente, sesso fatto in modo sbagliato, sesso con la gengiva, sesso con la gengiva. Cose che capitano, roulette genetiche. Abdallah, ciao, ti saluto, ciao. Allora abbiamo collegato con noi, caro Parenzo, in questa serata incredibile, un è un rappresentante del mondo fruttariano, cioè una persona che mangia solamente frutta. Dunque, un non dico, perché poi ci sono i crudisti, che è un'altra cosa. Lui è invece un fruttariano, non dico se al 100% fruttariano. Si chiama Gabriele Ceracchini. Eccoci qui, Gabriele. Buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora, ciao a tutti. Che tu sei fruttariano, che al 100% cosa sei? Cioè, beh, vicino. Diciamo che vuol che dire vicino? Oltre quasi solo frutta. Quasi solo frutta. Ma la cosa tremenda, se ti sente qualche dietologo amico nostro, dice che sei un pazzo scatenato, che fermenti dentro qualsiasi cosa. Scoreggi come un dannato, per carità. Però tremendo. Bisogna fare una precisazione importante, cioè la frutta non è soltanto la frutta dolce, quindi mele, pere, banane, ma anche la frutta ortaggio, zucca, zucchine, peperoni, melanzane. E che cos'è che ti concedi oltre a questa cosa qua? Beh, faccio qualche sgarro vegano, diciamo. Qualche sgarro? La pasta non la mangi mai, la pasta? La mangio di platano, buonissima. Di platano, la pasta di platano. Una cosa favolosa, la pasta, quella è fruttariana. Invece buona. La pasta normale non la mangi, gli spaghetti alla carbonara non li mangi. Beh, mi pare di capire. No, poi la carbonara meno che mai, perché contengono carne, no? Io contiene carne, tu ovviamente. La prima cosa che evito sono i prodotti di origine animale, anche per questioni etiche. Prodotti di origine animale per motivi etici, cioè dire uccidere gli animali non va bene, mi sembra di capire. No, non va bene. No. Allora, caro, però io non ti ho chiamato per parlare della solita cosa, i vegani, cioè non me ne frega niente. Tu hai delle idee ben precise su questo virus, anzi sostieni che il virus, caro Parenzo, non esiste. Cioè, signor Ceracchini sostiene, fruttariano, eccetera, studioso di alimentazione, eccetera, sostiene che il virus. Lui sostiene? Che il virus non esiste. Non esiste. C'è Mughini? C'è Mughini? No, dopo. Gabriele, dimmi c'è perché Mughini il virus. Un secondo. Ma fallo parlare prima, dai, poi di quello che ti pare. Gabriele, allora, dimmi. Come sostiene anche il dottor Andrew Kaufman, perché vabbè, ci sono non ci citare, dottori, non ci biologi, non è che è un mio pensiero, ovviamente. Il dottor Baker, per esempio, ha scritto un libro sull'argomento. Il virus non è un'entità che abbia le caratteristiche che ci sono state descritte, ma semplicemente si tratta di vescicole extracellulari che hanno una funzione specifica all'interno del nostro corpo, cioè quella di aiutare le cellule a disintossicarsi e consentono anche una comunicazione intercellulare. Ma cioè il coronavirus, lascia perdere le cose, il coronavirus quindi esiste? Si tratta di elementi che sono endogeni, cioè non vengono da fuori, ma fanno parte del nostro organismo. Cioè il virus ce l'abbiamo già. I virus stanno già dentro di noi. E a cosa stiamo assistendo in questi 60? Stiamo assistendo ad un'epidemia di tamponi, come dice anche il dottor Fabio Franchi, cioè più tamponi si fanno e più casi positivi escono fuori. Cioè è un'operazione di convincimento di massa, un'operazione è una truffa a livello globale, come ha scritto anche il Washington Times. Basta guardare i dati ufficiali, per esempio in America il virus ha ucciso circa 60.000 americani. C'è una truffa globale orchestrata da chi? C'è una truffa, ci stanno facendo... Quando invece sono morte, per esempio nel 2017, 80.000 persone per le banali influenze stagionali, capisci? Cioè, tu mi stai dicendo che questo virus... I numeri non danno ragione all'idea della pandemia. Cioè, dunque, la pandemia non esiste, il virus sostanzialmente è inventato dai poteri forti, immagino, no? Da chi è inventato? Dai poteri forti. Anche l'AIDS era una cosa inventata, forse, non lo so. Cioè non... L'AIDS è un complesso di sintomatologie che racchiuso in una sigla, che però non dipendono dal virus dell'HIV. Non è che non esista l'AIDS, è che non è provocato dal virus dell'HIV. Allora, dunque, questo virus è inventato, ma chi lo ha inventato questo virus dal punto di vista mediatico? Cioè, chi ci ha terrorizzato? Cioè, chi ovviamente si tratta delle elite che governano il pianeta, quelle che possiedono. Possiedono le banche centrali, la Federal Reserve, la BCE, possiedono i mass media, possiedono praticamente tutto l'intero pianeta. Cioè, ma chi? Le grandi famiglie massoniche, ebraiche, chi? Cioè, chi sostanzialmente? Chiaramente io non lo so di preciso chi sia stato, identificano più o meno i gruppi di potere che anche tu hai nominato. I gruppi di potere, Rothschild, che ne so. Mughini per piacere, c'è Mughini. C'è le grandi famiglie. C'è Mughini per piacere. Le grandi famiglie Rockefeller, questi qua, non ho capito. A che scopo hanno inventato l'esistenza di una pandemia che non esiste, un virus che non esiste? Qual è lo scopo? Allora, intanto ci sono motivazioni di ordine economico che sono le più semplici da essere spiegate. I vaccini. Tanto vendere vaccini, come si fece per esempio nel caso della aviaria, della suina, che sono altre pandemie inventate. Fu venduto il Tamiflu, famoso farmaco salvifico, non so se te lo ricordi, che fece fare miliardi alla Roche S.p.A., che è una multinazionale svizzera. E poi l'altro obiettivo qual è? Poi scoprì nel 2014 che il Tamiflu non curava assolutamente nulla. L'altro obiettivo, oltre a quello di fare i quattrini, qual è, che pure è un motivo peraltro sufficiente? Vogliono sterminare il mondo, vogliono ridurre la popolazione. Abbiamo tornato a parlare dei quattrini, perché poi c'è lo strozzinaggio neoliberista che schiaccia sempre di più gli stati, che si indebitano sempre di più grazie a queste crisi internazionali. Sì. Poi c'è le aziende che crollano di valore e possono essere comprate a due soldi. Ci sono i super ricchi che diventano sempre più ricchi ai danno del popolo che diventa sempre più povero. E ridurre il numero di persone della popolazione mondiale, credo sia stato detto anche questo. E poi ci sono certo altre motivazioni che sono un po' più difficili da spiegare e da capire, che riguardano la natura stessa delle elite che ci dominano, che sostanzialmente ci vede come bestie da macello e chiaramente non ha bisogno di averci in un numero eccedente, quindi ha bisogno che la popolazione mondiale venga ridotta. E due cose, gli illuminati che c'entrano? Questo gruppo di potere, diciamo questo macro gruppo, viene chiamato Illuminati o anche Cabala, insomma ci sono vari nomi. Cabala, io pensavo fosse la Cabala, cioè il coso, Cabala. È anche un nome che viene usato per identificare questo gruppo di potere, al quale pare che si stia contrapponendo Trump. Ultimamente. E Bill Gates? Che è stato messo in cattiva luce dai media, in realtà è uno, diciamo, dei migliori scenario internazionale. Bill Gates è un'altra persona che ha speculato enormemente e continua a speculare producendo vaccini e sta beneficiando enormemente di questa pandemia inventata. Ma dunque, vuol dire, nessuno ha diffuso... Fa parte della Cabala, chiaramente, è solo parte di questo gruppo di potere. Ma cioè nessuno allora ha, diciamo, diffuso il virus, perché tu dici il virus è stato inventato dai media, cioè è stato inventato da questo gruppo secondo di potere. Secondo me sì, c'è chi dice che sia stato creato in laboratorio, ma secondo me francamente non ci sono i numeri Parenzo, che giustificano. Puoi ridurre, puoi concludere. Guarda, sono state dette talmente tante cose, ho provato a prendere degli appunti per cercare di ricostruire e di contrastare, come dire, punto per punto le sollecitazioni di questo ospite, di questo signore che ha telefonato, il complotto, Rothschild, eccetera. Non potendo andare punto per punto, mi appello semplicemente a quello che disse tempo fa Mughini, per piacere, poi argomenterò. Chi era quel cretino di poc'anzi? Non puoi ridurre tutto così, dai, su. Ecco qua, è molto difficile. Non puoi, vedi caro, se tu inizi un discorso in cui dici che gli elefanti volano e poi cominci ad argomentare tutto il discorso, essendo la premessa del discorso sbagliata, anche la conclusione sarà sbagliata. Ma stai dicendo che io dovrei partire dall'inizio. Gli elefanti non volano, ma lui ha detto che gli elefanti volano e quindi c'è il complotto, le cose eccetera. Allora, essendo la premessa sbagliata, io non posso mettermi a discutere con uno che fa parte da premesse sbagliate, perché è tutto assurdo quello che dice. Cioè, ci sono una serie di follie messe insieme e tu lì a fare il chirichetto ad ascoltarlo. Ah sì, grazie, bravo. Cerachini, voglio capire una cosa, se tutto il mondo fosse fruttariano, le cose andrebbero meglio. Vaffanculo. Ma sicuramente, sotto diversi profili, non soltanto quello della salute, anche quello economico, della sostenibilità. Cioè tutto il mondo dovrebbe essere fruttariano. Cioè, assolutamente questo... sì, tutto... ma è il futuro che ci aspetta inevitabilmente, è il futuro soltanto aspetta, di velocizzare un po' i tempi. Stasera mi hanno fatto Rosbif, in queste grandi famiglie di illuminati. Io sono Rosbif stasera, io me ne fotto intanto. Quali illuminati? Io stasera mangio il Rosbif, vaffanculo! Stasera mi hanno fatto il Rosbif a casa, io mangio il Rosbif, un bicchiere sarà di vino padrone? Rosso e sarà il padrone, Cerachini. Non mi dovete rompere i coglioni, no, ma Rosbif con le patate, non mi rompete il cazzo. Io adesso me ne vado e vado a mangiarmi il Rosbif all'inglese. Ma no, mi dispiace per te che non lo mangi. Mi dispiace per te che non lo mangi. Io stasera mi mangio un Rosbif eccezionale, fatto rosolare, buonissimo. Un Rosbif meraviglioso. Assumiti le tue responsabilità, dice Cerachini. Assumiti le tue responsabilità. Stai rovinando il mondo. Stai rovinando, dice lui. Ma io mi vado a mangiare il Rosbif. Posso mangiarmi il Rosbif con le patate stasera o no? Ciao Gabriele, a presto, ciao. Ciao, buona serata. Sono stufo di sentirle sempre abbaiare dietro a anche quei poveri ragazzi lì che vogliono regolarizzare, no? Ma quei ragazzi lì prendono 3 euro all'ora, dormono nelle lamiere e lei abbaia sempre con quella gente lì. Ma non è vergogna? Matteo fascista di merda. Allora Giuseppe, altro che 6 centimetri da destra a sinistra di pelo, qui abbiamo una testimonianza finalmente dopo la quarantena, digli a Giuseppe. Allora, dopo la quarantena, altro che 6 centimetri, da una parte all'altra sarò arrivata a circa 10-11. Capito Giuseppe, altro che 6 centimetri, qui abbiamo l'Amazzonia, t'abbracci. Cosa

adoro. Adoro la zanzara. Adoro. Andiamo pure. Adoro. Che ne pensi di questa trasmissione? Io non ascolto mai la zanzara. Non mi interessa assolutamente niente. E poi paga sempre Pantalone. Ma e c'è Barisoni? Via! Da questo canale! Siamo al quinto giorno della fase 2. Io dalla mia cameretta, situata in una nota piazza del capoluogo lombardo, incomincio a vedere caviglie scoperte sulla strada, incomincio a vedere sandali smalto. Ci siamo, belli miei, ci siamo! Luciani, mai visto il porno di Martina Smeraldi? Quello con Fake Taxi, che parla di coronavirus tipo l'ha girato il mese scorso. Guardatelo che fa pelare dal ridere. Ciao! Gianni dalla provincia di Verona, avanti tutta, Gianni, vai. Ciao, dimmi. Ascolta, ho sentito la parrucchiera che va di casa in casa, è la cosa migliore per portare il virus in giro. Bah, sì, da un certo punto di vista è vero, cioè da un certo punto di vista è vero. È un servizio gratuito proprio per il virus. Ascoltami, io faccio il medico di famiglia, sì. E il signor Zai ha continuato a dire che i tamponi si fanno persino per le strade. Sì. A me ne hanno fatto uno il 15 aprile e basta. Vabbè, questo... E io vedo tanta gente. Ho capito, ma i dati sono quelli, però hanno fatto uno, i dati sono quelli. Cosa aveva? Sì, abbiamo una buona struttura territoriale, questa sì. Però con i tamponi fatti per strada, insomma, abbiamo letto noi come base, perché teniamo la gente, cerchiamo di educarla. Ho capito, però adesso io non so se si possono paragonare i tamponi fatti in Veneto a quale altra regione. Il fatto sta che mi sembra che quel modello lì finora abbia funzionato, cioè, mi sembra di sì, cioè, senza dubbio, al di là del numero dei tamponi fatti, che comunque sono tanti eccetera, non mi pare che sono si possano tanti, ma non tanti, ti ripeto, io faccio il medico, sono in mezzo alla gente, 1500 persone e finora me ne ha fatto uno solo, il 15. Ho capito, ma sarà la prassi farne uno solo per quello che ti riguarda, se non hai avuto, non lo so. Non è tutto oro quel che luce, insomma, diciamo. Ecco. Ho capito, ha tenuto la però tra tutte le regioni italiane, quello sembra il metodo più, assieme all'Emilia Romagna, i due metodi più interessanti. Emilia Romagna non mi sembra proprio. Cioè, scusa, l'Emilia Romagna ha contenuto e come? Non se ne parla per nulla, ma ha contenuto e come. Gianni, invece. ciao. Allora, c'abbiamo uno spadalino? C'abbiamo uno spadalo? Andiamo con spadalino, vai. Però quando vedo quella signora là... Chi? Mamma mia. Bella nona, la bella nona. Mamma mia. Ce l'ha con la bella nona. Mi viene uno scoramento. Che se fosse l'unica donna... Non so... Me ne andrei in un eremo, in un'isola sperduta del Pacifico. Piuttosto che stare in compagnia... di questa tipologia femminile. No, Teresa Bellanova, sto botolo grasso, parla lui, sto botolo grasso. È incredibile, ma io gli farei una telefonata io a Spadalino. Cioè, ma dice con la Bellanova neppure su un'isola deserta, ma si dovrebbe vergognare. Si dovrebbe vergognare. Per cercare di giustificare sto schifo riguardante la futura regolarizzazione dei migranti, falsi profughi, loro hanno diritto, perché c'è il Covid, il coronavirus. Vergognatevi. Andrea dalla provincia di Roma. Sì, Cruciani. Dimmi. Io sono a capo delle guardie armate, servizio scorte, voglio soltanto dire sono 58 giorni. Scusa, sei a capo di che cosa, scusa? delle guardie armate servizio scorte. E che cos'è guardie armate servizio scorte? Il servizio scorte, il servizio delle scorte. No, servizio no, ma per scorte. Capire, cioè, guardia... proteggiamo le persone. L'ultima che abbiamo protetto è Valeria Grasso. No, ma scusa, non esiste un servizio, Parenzo, correggimi, cioè è, il servizio è fornito dal Ministero degli Interni, cioè dal assolutamente ministero... No. Ho capito. Guardia armata, no, privato. Questi sono privati, credo. Ah, siete privati? Vabbè, siete delle persone. Vabbè. Che. Vabbè, ho capito. No, guardie, come le guardie giurate, sono le guardie giurate. Abbiamo un decreto prefettizio. Certo. Vabbè, ma chi se ne frega adesso? Cioè, ma possono esercitare, hanno funzioni non di pubblica sicurezza. Ma cosa noi, che cosa ce ne frega adesso? Che ce ne frega di questo? È una categoria, perché disprezzi questa categoria? Sono 58 giorni che siamo senza lavoro. Vabbè, mi dispiace, per carità. Non te ne frega un cazzo, eh? Certo, me ne frega, sì. È così, perché lui è populista. Bravo, finalmente l'ha capito questo. Bravo. Ma cosa ti devo dire? Che non te ne frega un cazzo, no, a te. Come non è che non me ne frega dire? Un cazzo, ascolta la benissimo. Testimonianza di questo settore, sto no? Ascolta. Un problema, ti sto sollevando un problema. Qual è il problema? Il problema è che sono 58 giorni che ci sono 4.000 padri di famiglia senza va lavoro. Benissimo, sono vicino, okay. Vi sono vicino, cosa devo ma fare che di più? Un cazzo, ma che sei vicino a niente, te. Ma non ho detto che non me ne frega. Bravo, ti hanno scoperto. Bravo. Un bugiardo come Conte e sei una testa di cazzo. T'hanno scoperto finalmente, i mortacci tua, bravo, bravo. T'hanno scoperto. Ma non ho detto nulla. A te non te ne frega un cazzo della gente. Ti mando i messaggi WhatsApp e non mi rispondi. Ma non so chi sei, ma chi se ne frega. Ma perché non ti fa comodo? Ma guarda, bravo, questo, ma guarda, bravo, questo, che, guarda bravo, questo che è uno di quelli, capito? Che ti ammanetterò prima o poi. Ti vengo a mettere le manette io. Le manette, ma io ti denuncio, fosse. Ti porto e ti tolgo via tutto. Ma che manette? Ma che cosa ma fai? Che manette vai? Ma quali manette fa? Ma quali manette? Hai la possibilità, bravo, di sollevare, bravo, i problemi e sollevi le cazzate. Ma quali problemi? Dico, ho capito, un problema serio, ma me lo stai ponendo adesso. Ma questo qui fa il populista, poi. Vai sul tuo telefonino là. WhatsApp, ma non lo so, ricevo, ma ne ricevo tonnellate. Hai ignorato le testimonianze di questo settore, di questo signore. Articoli di giornale. Noi lo so quando siamo buoni per voi. Ma questo per voi. Quello è buono solo quando a far dobbiamo casino, andare, quando dobbiamo andare a scortare i testimoni di mafia, perché il Ministero degli Interni gli devo che la scorta, però i coglioni privati vanno bene, capito? Andrea, ma io non so nulla di questa cosa qua. Ma non me ne sto fregando. Sai solo sollevare polveroni inutili anziché parlare dei problemi della gente vera. Vergognati, Luciani, andare in televisione a fare il coglione su Rete 4. Esatto, ma siete incredibili. Bravo. Tu e Andrea, bravo, questo qua della provincia di Roma, esatto, che si è presentato per parlare di un altro argomento, adesso sbrocca sul io ti avevo chiamato per dirti che ieri si è suscitato un mio amico ristoratore di Milano. E beh, ho capito, e ma che ti devo dire? Stai facendo? Ma che colpa ne ho io? Dillo a Parenzo che... Ma dillo a Parenzo, no, a me. Ma che cazzo vuoi da me? Cioè, se sei a lisciare il pelo, sollevati i problemi, esatto, seri. Io lo dico tutti i giorni. Se sei, esatto, se ti masturba o no. Adesso sei rimasto senza lavoro e rompi coglioni a me. Bravissimo. Questo è rimasto senza lavoro e rompi coglioni a noi. Guarda che a parlare. Io lavoro. Sì, hai ragione. Probabilmente dovrò andare a ascoltarci. Io domani ti chiamo, mi faccio dare il numero della redazione e domani ti chiamo. Io domani ti chiamo personalmente, ti faccio dare il numero della redazione e ti chiamo personalmente domani, perché questi populisti vanno messi nell'angolo, questi pagliacci che poi vanno a Rete 4 a pontificare contro questo e contro quello. Occupati dei problemi di questo signore, io domani lo chiamo. Sono servi del sistema, bravo, bravo. Senti. Hai ragione, bravo. Ma vai a fare il culo, bocca al lupo. Ma vai a fare il culo, coglione, dai, su. Ecco come tratta la gente che lavora, incredibile. Oh, il sindaco di Messina, abbiamo detto, il sindaco di Messina, il mitologico Cateno De Luca, che succede? Ah, sì. Ci mancava pure quello. Pronto? Sì? Pronto? Sì, con chi parlo? Pronto? Sì, pronto. Spatalo? Pronto? No, ha sbagliato. Ha roba incredibile. Ti sei alleato a quel vigilante privato. Detto, non so che cose vere, perché finalmente ti hanno smascherato nel tuo modo di fare. Smettete, quattro lì a fuori dal coro a fare il difensore del popolo. Poi quando c'è da affrontare il problema vero, me ne frega un cazzo. E la contessa De Blanc si masturba o no? Incredibile. Allora, Cateno De Luca, sindaco di Messina, vuole far ricongiungere i fidanzati da una parte e dall'altra dello stretto. Non ti sta bene nemmeno questo? Sentiamo, adesso lo chiamiamo, dai. Sì. Cateno, amico mio, sono Cruciani. Oh. Ciao Cruciani. Ma sai Cateno che a Parenzo non va bene neppure il passaporto degli innamorati? Cioè neppure una cosa così che favorisce l'incontro tra due persone che si amano, che si vogliono bene. Senza cuore, anche se io pensavo che in fondo anche un cuore ce l'aveva. Così proprio mi deludo, cade un mito. Oh, porca miseria, credevo che Parenzo un cuore ce l'avesse in fondo alla sua stronzaggine. Ma come si permette? No, ma non ho capito. Allora, una persona che vuole vedere un'altra persona a 10 metri. La fiera delle cazzate durante il coronavirus, ne abbiamo viste già troppe. Parenzo. La fiera delle cazzate, facciamole dopo. Il caro sindaco, eclettico ed eccentrico, più che eclettico soprattutto, il sindaco dovrebbe intanto rispettare la legge. Secondo, per finire sui giornali, non occorre sparare sempre cazzate all'ennesima potenza. Non occorre. Parenzo, vedi che noi non le abbiamo ancora autorizzate. Questi innamorati a vedersi, anche perché ha detto giustamente Viola Santelli, la quale ha paragonato Conte a Don Rodrigo. Ovviamente noi non gli auguriamo la fine di Don Rodrigo, che come sappiamo è morto di peste. Abbiamo semplicemente posto una questione che le sollecitate centinaia, devo dire, di adolescenti, i quali dopo due mesi, poveretti, che stanno chiusi in casa, separati da tre miglia marine dalla fascista. Ma scusa, ma è normale? Non ma... poter dire, signori, vediamo se c'è la possibilità di farsi entrare tra i congiuntivi, come si suol dire, e questo abbiamo fatto. Il nostro ruolo di sentinelle del territorio, parecchio. A proposito, in adolescenza, oppure sei stato sempre così, tra virgolette, nel mondo degli stronzi? No? Sono sempre stato innamorato e di grandi passioni nel mondo degli stronzi. Lei invece è proprio nato così? Lei è proprio nato così invece? Lei fin da bambino rompeva i coglioni così? Fin da bambino? Che poi ma che figura fa fare alla sua città? Cioè Messina è una città straordinaria rappresentata da sto buffone da circo. Una cosa veramente incredibile. Lei diventa un guitto internazionale. Lei sta facendo diventare Messina la città del circo, anziché mondiale. È una città del circo, esatto. Parenzo è stata presa ormai a modello anche dal Cirque du Soleil, probabilmente dal Cirque du Soleil. Io voglio capire una cosa. Uno propone una cosa, cioè il fatto che degli adolescenti, dei ragazzi, chiunque, divisi da uno stretto, si possono riabbracciare, possono stare insieme, possono anche trombare, possono fare quello che vogliono. Quello che uno vuole. Ma chi se ne deve occupare il sindaco? Non ho capito. E chi se ne deve occupare? Il sindaco non lo deve segnalare, Parenzo, perché te ne occupi tu di queste cose, che non è una minchia da ma fare. Che minchia sei? Ma scusa, ma Parenzo, sei proprio. Ma perché di capire le vere necessità del territorio quali sono? Invece no. È incredibile. Come è proprio un personaggio da circo. È da circo proprio. Ad assalirci, per favore, Parenzo, parlo almeno una cosa seria. Cioè, questo è una roba, una specie di passaporto dell'innamorato. Due persone che sono residenti da una parte e residenti dall'altra si incontrano perché sono fidanzati e sono innamorati e vogliono vedersi. Ma qual è il problema? Dov'è il problema? Parenzo non è mai stato innamorato. Secondo me è ancora vergine. Beh, questo io intanto questo non è possibile. Visto che io ho tre figli, tra poco quattro. Guarda il sindaco. La città conosciuta in tutto il mondo per questo qua. Ma perché non ti metti anche un naso rosso in faccia? Perché non ti metti anche un naso rosso, che così fai ancora più ascolto? Lo sai, perché alla faccia tua, mentre qui abbiamo il sole e mi abbronzo mezz'ora la mattina pure. Guarda, abbronzatura integrale. Perché non hai preso troppo sole nella coccia, come dicono in Abruzzo. Hai preso sole nella coccia. Perché hai preso brutto quello, mi pare sei tu che sei un nano da giardino. Un nano da giardino prestato alla politica. Ciao Cateno, avanti tutta. Grazie per la telefonata. strada. Parenzo, innamorati, ciao! Ciao, ciao. Barisoni gay. Massimo da Torino, avanti tutto. Massimo, dimmi. Ciao, buonasera. Dimmi. Via, andiamo a chiudere. Vai, dimmi, andiamo Massimo, a chiudere. Dimmi. Andiamo a chiudere. Ma ascolta, io sono una persona che lavora, faccio 50 ore di 50 ore a settimana di lavoro, sì. E guadagno bene che vada 800 euro al mese. Sì. Aiuto mia figlia che lavora in un bar ed è due mesi che non lavora. Sì. E poi mi sento dire da quella femminuccia che lui stasera si mangia il roast beef. Il roast beef, sì, il roast beef. Sì, è gravissimo. Ma che c'è? Vergogna! È una vergogna. Ha ragione Massimo. Il roast beef è una cosa... Zitto, fallo parlare. Dimmi Massimo. Ma cosa vuol dire il roast beef? Sì, si mangia il roast beef, pensa di... di quello che dici. Tu sei la femminuccia, Ma non ho capito perché non posso mangiare il roast beef, però. E devi ascoltare Massimo da Torino che guadagna 800 euro al mese. Disse 800 euro al mese 400.000 fermo, e ogni e aiuta, volta che va a dare 4 fa adesso la marchetta pagata. Massimo sta dicendo aiuto, mia figlia che da due mesi che non lavora e tu vieni qui in radio a dire apertamente senza pudore che stasera ti mangi un fantastico roast beef. Guarda che gli 800 euro che prende lui sono quelli che prendi tu quando vai da la metà Massimo, di quelli che prendi quando vai da Del Debbio. Massimo, spiegaglielo a questo signore che 800 euro tu li guadagni in mezz'ora da Del Debbio. Vai, diglielo Massimo, a questo qui, spiegaglielo. Allora, mi Massimo, 800 vai, euro li guadagni. Fai parlare Massimo. Io stasera sono andato al Lidl, ho comprato una baguette 35 centesimi, due pomodori e una cipolla. E sono venuto qui a lavorare stasera alle 6. E hai sentito, hai dovuto smonto domani mattina alle 5. E hai dovuto ascoltare alla radio il roast beef, capito? Che il sontuoso roast beef. Ma che sontuoso è normale? E lo dice in tutta Italia, con gente che ha detto che mangia roast beef. Ascolta Massimo e vergognati. 800 euro questo qui li guadagni. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Perché la mia commercialista Pina Pitone adesso deve mettere un altro codice IBAN.